GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Processo per direttissima per gli 8 ultra arrestati per l'assalto al treno. Nel dopo partita Udinese-Venezia l'udienza si aprirà alle 13. I carabinieri di Udine stanno indagando per ricostruire le cause dell'uscita di strada ieri sera a Feletto Umberto dell'auto condotta da un 22enne rimasto ucciso sul colpo nello schianto contro un albero. La polizia di Gorizia ha arrestato 5 tunisini ritenuti responsabili dei disordini al CPR di Gradisca dello scorso 21 gennaio. Negli scontri erano rimasti feriti alcuni operatori di polizia. Nessuno ne aveva denunciato la scomparsa. Per puro caso un anziano caduto in montagna a nord di Malborghetto è stato intercettato dai carabinieri forestali che hanno allertato i soccorsi e lo hanno salvato. Era in stato di ipotermia. Grado presenta la sua stagione estiva. I prezzi di ingressi, sdraio e ombrelloni rimangono quelli dell'anno scorso e ci sono alcune novità come in un grande galeone sull'Arenile per far giocare i bambini e un'area con divieto totale di fumo. La giunta regionale valuterà l'utilizzo del privato accreditato per la cura dei denti. Lo farà al termine della valutazione del responsabile regionale per l'odontoiatria pubblica. L'annuncio dell'assessore alla salute in risposta a un'interrogazione in consiglio regionale. Basket di A2, l'Apua ha superato Avellino al Pala Carnera per 100-91 ed è solo in vetta alla classifica. Calcio Serie C, vittoria esterna per la Triestina e Lombardia 3-1 contro il Lumezzane. Buongiorno, ben ritrovati da Lorenzo Gherlinzoni e Francesca Vigori. Si aprirà tra poco alle 13 al Tribunale di Udine il processo per direttissima agli 8 arrestati per l'assalto al treno e al pestaggio dei tifosi veneziani avvenuto sabato sera alla stazione di Basiliano. Gli imputati compariranno in camera di consiglio a porte chiuse davanti al giudice Matteo Carlisi. È fissata alle 13 in tribunale a Udine l'udienza per direttissima agli 8 arrestati dopo l'assalto al treno di tifosi diretto a Venezia. Il procedimento si applica a questo tipo di reati da stadio. Sono stati arrestati dalla polizia in flagranza di reato alla stazione di Basiliano, teatro dell'agguato. 5 austriaci, un bosniaco residente in Austria, ma anche un albanese e un italiano residente a Udine. Non ci sarà in aula la persona denunciata a piede libero, un altro cittadino italiano. Quasi tutti, con lavori a tempo indeterminato, non hanno mai ricevuto in Austria divieto di avvicinamento agli stadi. A tutti loro però è stato già applicato il DASPO, ovvero il divieto di avvicinamento a luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, per 5 anni in Italia. Il sindacato di polizia SAP aveva chiesto il DASPO a vita per chi delinque durante le manifestazioni sportive. Gli 8 imputati compariranno in camera di consiglio a porte chiuse davanti al giudice Matteo Carlisi. Ci sarà un traduttore tedesco. Rischiano pene fino a 6 anni di reclusione, aggravanti escluse, ovvero la pena massima dei reati più gravi come blocco ferroviario e rissa aggravata. Gli altri capi di imputazione sono resistenza a pubblico ufficiale e utilizzo di artifici pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Nel corso della stessa udienza saranno disposte o meno misure cautelari. Gli avvocati, Adami del Foro di Udine ne difende 7 su 8, potrebbero chiedere un rinvio per studiare il fascicolo e a quel punto la sentenza potrebbe non arrivare quest'oggi. La questura di Udine sta indagando ancora su decine di altri soggetti coinvolti nella rissa in collaborazione con i colleghi di Venezia e gli inquirenti austriaci. Il sindacato SIULP denuncia una inadeguatezza del personale impiegato, 200 agenti, meno di quelli in forza a un commissariato di Roma, appena 12 in Digos, e nei prossimi mesi metà di loro andrà in pensione, pur dovendo fronteggiare ogni settimana eventi sportivi di caratura nazionale. Occorre sviluppare ancora una riflessione per ogni ulteriore possibile coinvolgimento del mondo dello sport per allontanare definitivamente questi soggetti, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi. Il susseguirsi di manifestazioni di inciviltà e violenza dimostra, ha aggiunto, che le misure di prevenzione adottate dallo Stato sono assolutamente necessarie. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Udine stanno conducendo le indagini per ricostruire cause e dinamica dell'incidente stradale che ieri sera a Feletto Umberto è costato la vita alla 22enne di Premariacco Gabriele Zentilin. Il sinistro è avvenuto poco dopo le ore 21 su viale Vittorio Veneto in un tratto rettilineo. Per cause in corso di accertamento il giovane ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un albero. L'impatto è stato violentissimo, l'auto è andata completamente distrutta. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dalle lamiere, inutili tentativi del personale medico-sanitario del 118 di rianimarlo, le ferite riportate erano troppo gravi. La polizia di Gorizia ha arrestato 5 tunisini in relazione ai gravi disordini che hanno interessato i CPR di Gradisca di Sonso nella serata del 21 gennaio scorso, quando erano rimasti feriti alcuni operatori delle forze dell'ordine a presidio della struttura. La squadra mobile della questura di Gorizia ha identificato i 5 incrociando l'esame delle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza della struttura con i rilievi della polizia scientifica e le ricostruzioni dei fatti operate dai presenti. Già nel pomeriggio del 23 gennaio, due tunisini di 19 e 25 anni erano stati raggiunti presso il CPR Isontino e tratti in arresto per i delitti di devastazione e saccheggio, danneggiamento aggravato, resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali. Contestualmente altri tre tunisini di 27, 40 e 32 anni sono stati raggiunti dagli operatori della questura di Gorizia presso il CPR di Milo Trapani, dove erano stati nel frattempo trasferiti, venendo arrestati a loro volta per gli stessi reati. Le misure sono state adottate attraverso il ricorso alla flagranza cosiddetta differita, istituto previsto dal testo unico sull'immigrazione che consente di procedere all'arresto nelle 48 ore successive ai fatti di coloro che anche sulla base di documentazione video fotografica risultino autori di reati compiuti con violenza sulle persone o sulle cose all'interno dei centri per i rimpatri. Tutti gli arresti sono stati convalidati e nei confronti dei 5 è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. I carabinieri forestali hanno casualmente trovato questa mattina nella zona nord di Malborghetto un uomo di 76 anni residente nel Tarvisiano in forte stato di ipotermia. L'uomo è stato subito soccorso e recuperato dal soccorso alpino di Cave del Predil assieme ai militari della Guardia di Finanza e dall'elisoccorso regionale. L'anziano ha riferito di essersi allontanato ieri da casa e di essere caduto più volte cercando di rientrare, per poi fermarsi stremato nei pressi della chiesetta del Boscaiolo verso il rifugio Ciurciule, dove c'è una vecchia strada dismessa. Una volta stabilizzato e imbarellato, è stato portato via con l'elicottero all'ospedale di Udine. La politica ora, il Consiglio regionale si appresta ad affrontare la relazione del Comitato per la legislazione sulle liste d'attesa in sanità. Intanto in mattinata le interrogazioni a risposta immediata e la commemorazione del giorno della memoria. La Giunta regionale valuterà l'utilizzo del privato accreditato per la cura dei denti. Lo farà al termine di un lavoro che è stato assegnato al responsabile regionale per l'odontoiatria pubblica, un'offerta di servizi che nel 2024, tornata ai numeri del pre-pandemia in Friuli Venezia Giulia, si attesta su livelli doppi rispetto alla media nazionale. È in sintesi quanto ha detto l'assessore alla salute Riccardo Riccardi, risposto a un'interrogazione del consigliere di minoranza di Patto per l'Autonomia, Enrico Buglian, secondo cui la Regione dovrebbe attivare una campagna di prevenzione che includa prestazioni di base. Riccardi ha aggiunto, rispondendo a un'altra interrogazione del democratico Diego Moretti, che è stato risolto il problema tecnico che impediva agli ex esposti all'amianto di usufruire dell'esenzione per il ticket. Del tutto diverso il tema delle interrogazioni in cui sono state richieste informazioni sul collegamento marittimo Trieste-Grado. L'azienda di trasporto pubblico Esontina, l'APT, ha smentito le notizie apparse sulla stampa locale a proposito di una presunta risoluzione del contratto con l'azienda che ha messo a disposizione il traghetto che la scorsa estate ha rischiato di affondare al largo di Grado e rimane sotto sequestro. Nella risposta dell'assessora Cristina Mirante, letta da Pierpaolo Roberti, APT ha comunicato di aver pubblicato avvisi per il noleggio di una motonave con equipaggio per la prossima estate. Non soddisfatto della risposta Francesco Russo del Partito Democratico, secondo cui la Regione dovrebbe essere più dura con coloro i quali è stata affidata la gestione del servizio in passato. La seduta si era aperta con una commemorazione per il giorno della memoria. Sono intervenuti il presidente dell'Aula Mauro Bordini e il governatore Massimiliano Fedriga, che ha ammonito contro l'antisemitismo mascherato da antisionismo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La spiaggia di Grado è stata la prima spiaggia d'Italia più prenotata dagli stranieri nel 2024 e oggi si guarda avanti. In mattinata la gita ha presentato la stagione 2025. Innanzitutto la precisazione: i prezzi di ingressi, sdraio e ombrelloni rimarranno invariati. Tra le novità, una sezione della spiaggia vietata ai fumatori e un'area dei pirati per i bambini con un grande galeone di legno dentro cui giocare. Anche nel 2025 i prezzi a grado rimangono invariati, un ombrellone giornaliero in prima fila per due persone, 15 euro con parcheggio, una giornata spesa in spiaggia con la famiglia, 30 euro e 50, piccoli ritocchi solo per le offerte Superior. Le altre novità, il completamento dell'attrezzatura da spiaggia con un investimento di 350.000 euro, una parte completamente libera dal fumo e per la gioia dei più piccoli la nuovissima Baby Beach a tema pirati con l'installazione di un galeone in replica di 12 metri. Confermate 4 giornate a tema per la famiglia nel parco acquatico, le 4 serate Cuore Italiano e Venerdì Musicali. Questi alcuni passaggi della nuova stagione pensata dalla GIT di Grado e presentata dal suo presidente Roberto Marin, che ha sottolineato i numeri in crescita della società con un fatturato di 10 milioni nel 2024, anno in cui Grado è stata la prima spiaggia d'Italia più prenotata dagli stranieri e la seconda miglior spiaggia d'Italia dopo Vieste. Una crescita che continua anche grazie all'impegno della regione, rappresentata dall'assessore al turismo Sergio Emilio Bini, che ha lodato il successo della GIT. È un esempio di buona gestione, buona programmazione e di buona società pubblica, ha detto Bini. Grado, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo al meteo, cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, coperto a Tarvisio per nubi basse. Le temperature registrate poco fa, Trieste 8 gradi, vento a 41 km orari da est-nord-est, dunque Bora, Pordenone 9 gradi, a Udine Gorizia ci sono 10 gradi, a Sappada meno 1, a Tarvisio 1 grado sopra lo zero, Tolmezzo e Piancavallo 6 gradi, Forni di Sopra 7, sul Lussari 0 gradi, sullo Zoncolan 1 grado. Tornando sulla costa, Grado e Lignano 9 gradi. Le previsioni dell'ARPA oggi per tutta la giornata: cielo in prevalenza sereno sulla regione, sulla costa e sulle zone orientali. Soffierà bora moderata, anche temporaneamente forte a Trieste. Domani ancora cielo sereno e bora sulla costa. Aperto oggi il cantiere per la sostituzione della condotta idrica sotto la galleria Sandrinelli a Trieste. Da oggi l'allestimento del cantiere, da venerdì 7 febbraio fino alla mezzanotte del 28 febbraio, invece la chiusura del traffico veicolare del tunnel che congiunge Piazza Goldoni con Piazza Sansovino. L'unica deroga al transito sarà prevista per il trasporto pubblico che potrà accedere alla galleria e per il quale verrà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico alternato. Alla fase di lavori nella galleria Sandrinelli seguirà dal 1 al 16 marzo quella che riguarderà l'incrocio tra Piazza Sansovino, Via Madonnina e Via Bernini. In questa fase verranno eseguite le ultime attività idrauliche necessarie a mettere in funzione la nuova condotta. In questo periodo saranno previste chiusure, non saranno previste chiusure se non un restringimento di carreggiata nella zona dello scavo di Piazza Sansovino. Al via domani le iniziative in Friuli per il giorno del ricordo delle vittime delle foibe e del dramma degli esuli giuliano-dalmati. Protagonisti i ragazzi delle scuole cittadine in una serie di iniziative che proseguiranno per 2 settimane. Nutrito il calendario udinese degli appuntamenti per celebrare il giorno del ricordo, calendario presentato oggi in comune a Udine. Da domani fino al 17 febbraio saranno coinvolte scuole, università e la cittadinanza. A Udine transitarono 100.000 italiani esuli, circa un terzo delle persone che in totale costituirono l'esodo istriano. La cerimonia ufficiale programmata per lunedì 10 febbraio si terrà al parco Martiri delle Foibe con la deposizione di una corona d'alloro. Le scuole saranno protagoniste con appuntamenti mirati alla sensibilizzazione delle nuove generazioni ai licei Copernico Stellini e all'ISIS Bonaldo Stringer. Il 7 febbraio l'Università della Terza Età Paolo Naliato ospiterà la presentazione del libro Di questo mar che è il mondo di Rosanna Giuricin, giornalista e scrittrice nata a Rovigo. L'11 febbraio alla Biblioteca Civica Vincenzo Ioppi sarà presentato il fondo bibliografico appartenuto a Silvio Cattalini. Il programma seguirà il 12 febbraio con la proiezione al cinema visionario del docufilm Rotta 230, Ritorno alla Terra dei Padri. A chiudere il ciclo di eventi, il 17 febbraio, sempre alla Biblioteca Ioppi, sarà la presentazione del libro Le Foibe spiegate ai ragazzi, della giornalista Greta Sklaunic. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Due giornate di orientamento per gli studenti delle scuole superiori, oggi e domani, nel campus di Via Prasecco a Pordenone. L'Università di Udine propone la sua offerta accademica. La scelta della facoltà universitaria, fondamentale, forse non decisiva, ma sicuramente importante. L'Università di Udine apre le porte del suo campus a Pordenone in due giornate dedicate all'orientamento. Oggi nella sede di Via Prasecco, Open Day per conoscere le opportunità dei corsi di laurea, dei dipartimenti di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, e poi studi umanistici e del patrimonio culturale, scienze giuridiche, scienze economiche e statistiche. Domani invece spazio a medicina, scienze agroalimentari, ambientali e animali, e ancora scienze matematiche, informatiche, fisiche e infine quello che è il Politecnico di Ingegneria e Architettura. Per gli studenti delle scuole superiori di Pordenone, lezioni e incontri con i tutor per sapere innanzitutto come iscriversi, è la prima domanda, e avere poi un primo contatto con i docenti, ma anche per conoscere l'offerta formativa dell'Ateneo Friulano dei corsi di laurea triennali del Consorzio, ovvero Banca e Finanza, Infermieristica, Ingegneria Industriale per l'Energia, Scienze tecnologiche multimediali. Sono circa 1000 gli iscritti oggi alla sede di Pordenone dell'Università di Udine. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Da oggi fino al 28 febbraio, tramite la piattaforma online Civis, sarà possibile fare domanda di iscrizione ai servizi educativi organizzati dal Comune di Udine per la prossima estate. 1790 i posti disponibili dei 3 anni di età ai ragazzi delle scuole medie. E sempre oggi fino al 28 febbraio a Pordenone è possibile iscrivere i bimbi ai nidi comunali, iscrizioni che invece terminano oggi per i bambini residenti nel comune di Trieste. Nel capoluogo friulano invece i termini per le iscrizioni nelle graduatorie comunali sono iniziati l'altro ieri e scadono il 31 marzo. A Gorizia infine c'è tempo fino al prossimo 30 aprile. Tornando a Trieste, oggi inizia il doposcuola collegato a Trieste Campus negli spazi di Via Locchi. L'attività è pensata per atleti e atlete tra i 14 e i 18 anni iscritti alle associazioni affiliate, con l'obiettivo di fornire un supporto concreto per bilanciare tempi tra studio e attività sportiva. Gli spazi saranno disponibili ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 con supporto di 2 tutor. E ora parliamo di Space Economy, il settore della ricerca, dell'esplorazione e della gestione dello spazio, una realtà in cui il Friuli Venezia Giulia è presente con la triestina Picosats. Sono quasi 10.000 i satelliti in orbita intorno alla Terra e formano vere e proprie costellazioni, reti per la telecomunicazione che fanno rimbalzare i segnali e collegano ogni angolo del pianeta. È la nuova conquista dello spazio, frontiera dell'innovazione, dell'economia e della geopolitica, una realtà che in pochi anni supererà i 1.000 miliardi di dollari e che vede già in azione imprenditori ultramiliardari come Elon Musk e Jeff Bezos, ma in cui è presente con un ruolo significativo anche il Friuli Venezia Giulia con la startup Picosats, nata dall'Università di Trieste e ospitata nell'area Science Park, che si occupa di un aspetto specifico. La presidente di Picosats, Anna Gregorio. Facciamo sistemi di telecomunicazioni satellitari. Abbiamo già costruito i nostri primi sistemi, sono sistemi miniaturizzati ad altissime performance, che significa essenzialmente alte velocità di trasmissione. Ormai conosciamo tutti, siamo abituati alla DSL e ormai non ci torniamo indietro. Neanche da satellite. Il 2025 per loro sarà un anno importante. A breve sarà lanciato un primo prototipo del sistema 5G in un progetto con l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana. Un risultato importante per una realtà che raccoglie le proprie forze dal territorio. Il cuore sono i giovani. Sono tutti praticamente neolaureati, sono una ventina di giovani ragazzi e ragazze, ingegneri e fisici. È bello vederli lavorare insieme tutte le mattine, è proprio un bel gruppo. Puntare sullo spazio è fondamentale. Da queste ricerche nascono tecnologie che saranno impiegate anche sulla Terra. Un'economia, insomma, che attira sempre di più l'interesse delle grandi potenze. Dal punto di vista economico è fondamentale. Dallo spazio si controlla il mondo, si controllano le telecomunicazioni, per cui è chiaro l'importanza. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il mondo degli sport invernali è in lutto e piange Gaetano Dicenta, padre e primo allenatore dei figli Manuela e Giorgio, nonno di Martina. Lo scrive la Federazione Italiana Sport Invernali sul suo sito, comunicando la propria vicinanza alla famiglia. All'età di 97 anni Gaetano Dicenta lascia la famiglia dopo aver dedicato la propria vita ad essa e allo sport, da atleta prima, da tecnico e dirigente poi. I funerali avranno luogo domani, martedì 4 febbraio, alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Paluzza in provincia di Udine. Basket Serie A2, la APU ha superato Avellino al Carnera per 100-91 ed è sola in vetta alla classifica. Sentiamo. Dopo 3 anni, in vetta da sola, la vittoria su Avellino e gli scivoloni delle dirette avversarie Cantù e Rimi valgono il primo posto per un Apu che contro un'ottima squadra fa come il gatto con il topo. Al Carnera, violato la scorsa settimana da Brindisi, ai friulani bastano 2 accelerazioni. Se nel primo tempo Bortolin e l'ex Mussini creano qualche grattacapo, costringendo soprattutto l'attacco agli straordinari, visto il ritmo e la precisione degli irpini, da metà gara in poi la squadra di Vertemati mantiene il ritmo, cominciando a difendere un po' meglio, mentre i Kanji continua a martellare dall'arco assieme a Johnson, portando i bianconeri sul più 9. Poi si sveglia Tony Hickey, tripla del più 11 e del più 14 in serie. Sembra fatta, ma Avellino non molla mai. Nell'ultimo periodo, a partita compromessa a causa anche della panchina corta, Lewis e un canestro e fallo di Mussini rimettono tutto in discussione. Ma da almeno 6 firmato Erlington, Udine sale ancora una volta sulle spalle di Hickey. Il play americano segna 10 punti in 2 minuti, a cui aggiunge le 2 triple che tagliano definitivamente le gambe alla squadra di Crotti. C'è tempo quindi anche per il centello firmato Johnson. Udine vola, anche se con 13 giornate da giocare e tanti scontri diretti, anche se quasi tutti in casa, è dannatamente presto per mettere in frigo le bottiglie. Udine, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora il calcio nella Serie C con la vittoria esterna per la Triestina che ha battuto 3-1 il Lumezzane. Dopo la frenata delle ultime 2 settimane, la Triestina torna in carreggiata. A Lumezzane gli alabardati dominano in lungo e in largo. In pieno mercato è l'ultimo arrivato a segnare il vantaggio. Ionita, 34 anni e una ventina di reti in Serie A, all'esordio confeziona una perla già al 6° minuto che indirizza la partita nella giusta direzione. Al centrocampo di Tesser uno così serviva come il pane. 6 minuti arriva il raddoppio, transizione offensiva e pallonetto vincente di Fertainen. Il finlandese dato per partente ma che alla fine resterà sigla un gol tecnicamente più difficile di quello che sembra al 12°. Proprio lui qualche minuto più tardi cerca il bis in un'azione fotocopia, ma la conclusione stavolta esce di poco. In campo c'è solo l'Unione e il 3-0 arriva già a metà primo tempo. Ancora Fertainen, lasciato solo in area, trova la doppietta su ribattuta con gli avversari che lo lasciano concludere chiedendo un fuorigioco che non c'è. La pratica lumezzane è così di fatto conclusa. Nella ripresa la Triestina arretra e risparmia energie, salvata da Ross che capitola al 90° quando non serve più. Tenkorang trova il gol della bandiera, 3-1, e la Bardà a meno 4 dalla zona salvezza. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Coloriamo il futuro dei bambini rifugiati e la campagna di raccolta fondi promossa dall'UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati, al fine di garantire accesso all'istruzione a 250.000 bimbi in 26 paesi in tutto il mondo. Il progetto prevede fra le altre cose la costruzione e la ristrutturazione di aule scolastiche, la fornitura di banchi, la formazione degli insegnanti, il sostegno economico alle famiglie per l'acquisto dei libri. Fino al 23 febbraio è possibile donare con un SMS o una chiamata da rete fissa al numero 45588. Qualche appuntamento del pomeriggio e della serata in regione. Cominciamo con la musica. Per il lunedì dello Schmidl, questo pomeriggio a Palazzo Gopcevic a Trieste, approfondimento a cura di Stefano Bianchi, sui trii per clarinetto, violoncello e pianoforte di Pavle Mercù, Guido Pipolo e Riccardo Fabris, nell'esecuzione del trio Espero formato dal pianista Alberto Olivo, il clarinettista Stoyan Petrushev e la violoncellista Elena Soranzio. L'appuntamento quindi a Palazzo Gopcevic a Trieste alle 17.30. Al via le passeggiate cinematografiche di Kino Atelier a Gorizia, la prima è dedicata a Nora Gregor, partenza da Borgo Cinema in via Rastello alle 15.30. Francesco De Nicola, per 30 anni docente di letteratura italiana all'Università di Genova, e il professor Elvio Guagnini si confrontano sulla poesia italiana oggi a Trieste, alla libreria Ubic alle 18. Un nuovo gruppo di lettura al Museo Letz di Piazza Ortis a Trieste. La coordinatrice del progetto è Mavis Toffoletto, responsabile del Patto di Trieste per la lettura. Primo incontro alle 18. Quarto incontro interreligioso, Camminare sulle spalle dei maestri, tema odierno, Dietrich Bonhoeffer, pastore evangelico tedesco morto nel campo di concentramento nazista di Flossenbürg. Se ne parla a Pordenone, nella chiesa battista di Viale Grigoletti alle 20.30. Il nostro giornale radio si chiude qui da Lorenzo Gerlinzoni e Francesca Vigori che lo hanno redatto e condotto, Eugenio Giuffrida e Marco Ferrito che hanno curato la parte tecnica, Samantha Gon che ha collaborato in redazione. Grazie per la cortese attenzione. Buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.